Salone, fuori salone, esperti del settore e turisti assetati di design. Mettete insieme tutto questo e otterrete la Milano Design Week. Giorni in cui la città cambia aspetto e si popola come mai durante il resto dell'anno. Via Tortona e via Savona sono le tappe obbligate per chi vuole mescolarsi agli artisti. Il cuore del fuori salone si sa, batte soprattutto la sera, ma le esposizioni e gli eventi abbondano anche di giorno, sparsi per i diversi quartieri. Per chi vuole ripassare la storia del design in modo coinvolgente allo spazio Emporio di via Tortona c'è la mostra Ouverture 2012, organizzata dalla rivista internazionale di architettura e design Area, che propone il tema dell'aprire e del chiudere, metafora dell'iniziare e finire attraverso un percorso fatto di oggetti simbolo. E gli oggetti invece si mettono a parlare fra loro, addirittura a danzare nello spettacolo teatrale Design Dance. 456 in tutto, tavoli, letti, sedie, librerie e comodini messi in movimento da attori, acrobati e danzatori, per un grande omaggio alla creatività made in Italy classica e moderna. Appuntamento al Teatro dell'Arte della Triennale a cura di Michela Marelli e Francesca Molteni. Ancora una celebrazione, stavolta per i 30 anni del mensile di Condé Nast AD e la mostra AD, la casa degli italiani 1861-2011. Un percorso interattivo e multimediale che rispecchia l'evoluzione sociale dell'abitare. L'ingresso è gratuito al padiglione 2 di Fiera Milano City. In mostra centinaia di video, oggetti, foto di interni di grande formato che attraversano la storia d'Italia dall'unità all'era di Internet. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.